Radio 3 Lezioni di musica. Luca Mosca. Il concerto in re maggiore opera 35 per violino e orchestra di Piotr Ilich Tchaikovsky. Ben ritrovati alle lezioni di musica. Oggi parleremo del concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky. Questo concerto fa parte di un poker d'assi di concerti per violino dell'Ottocento, direi concerto di Beethoven, concerto di Mendelssohn e concerto di Brahms, meraviglioso. Con questo concerto di Tchaikovsky sono proprio la vetta, no? Ogni violinista vorrebbe suonare questi meravigliosi concerti, no? Con l'orchestra, è un'emozione formidabile. Questo concerto non è da meno rispetto al concerto che abbiamo sentito ieri, rispetto al primo concerto del pianoforte orchestra, è un capolavoro assoluto. Direi che di questi quattro concerti dell'Ottocento è forse il più difficile, proprio tecnicamente, da suonare per il violinista, perché la scrittura di Tchaikovsky è molto impervia, non so come spiegarvelo, ma arriva a delle posizioni, no, della mano sinistra, proprio no, per intonare le note, che sono nell'acuto soprattutto, così molto scomode e come dire, un poco violinistiche. È che il concerto è talmente meraviglioso che i violinisti, no, lo studiano, no, tutti quanti e poi arrivano molto spesso a suonarlo bene. Insomma, è comunque un banco di prova violinistico. Diciamo così, che non so, il concerto di Paganini apparentemente sembra più difficile, in realtà è scritto talmente bene per violino che non è così difficile come il concerto di Tchaikovsky, capite? È questo che volevo dire. Cioè, è come scrivere per pianoforte. Per pianoforte si può scrivere in maniera pianistica, un pianista scrive, sa perfettamente qual è l'effetto, no? Invece a volte un non pianista o un non violinista non sanno esattamente fino a che punto, no, si può arrivare con lo strumento dal punto di vista tecnico. Il concerto comincia con un'introduzione. In questa introduzione c'è subito, immediatamente, no, i primi violini, non il violino solista, i primi violini dell'orchestra che fanno questo frammento melodico. Sentite, eseguono questo frammento melodico. Questa è l'orchestra, Ecco, in questo primo frammento sentite che avete questo. È un elemento melodico molto importante. Lo rivedremo più avanti, anche nel secondo movimento, che comincia così, il secondo movimento. Sentite. Avete sentito? La relazione che c'è fra l'inizio del primo movimento e il tema del secondo movimento. Ma andiamo avanti, l'orchestra l'avevamo lasciata a fare questi accordi. A questo punto comincia quello che si chiama un pedale, cioè una nota ferma al basso, e i primi violini fanno questo tema. Ecco, vedete che questo è il germe da cui scaturirà il primo tema vero di questo concerto, quello che esporrà il violino appena appare, ed è mescolato con il tema dell'introduzione. Sentite, ecco l'introduzione, ecco il primo tema, ecco l'introduzione, primo tema, introduzione, primo tema. Ed ecco questo elemento qua, questo è molto importante. È molto importante perché è completamente trascurato, c'è solo in queste due battute, e tornerà dopo 5 minuti di tempo come un elemento che apparentemente sembra nuovo nello sviluppo, mentre invece l'abbiamo già sentito qui. E anche questo elemento successivo a questo, sentite? Questo. Ed ecco il violino che entra. Questo elemento qua in realtà diventerà il tema dell'ultimo movimento. Il tema dell'ultimo movimento che fa. Questo elemento qua. strumento che troveremo nel terzo movimento. Il violino finisce questo suo ingresso, che comincia in maniera quasi recitativo, con questo elemento. È sempre... la trasformazione dell'inizio. Ed ecco l'ingresso dell'orchestra. E questo è il primo tema nella sua interezza. Sentite la delicatezza dei violoncelli, il pizzicato, controtema dei primi violini. Adesso la coda del tema. Questo ritmo puntato. Questo è il terzo movimento. Di nuovo il tema. Con doppie corde, triple corde del violino. Come in un pezzo di Bach, sentite. Adesso in questo momento c'è una figura sempre mutuata dell'introduzione, questa, un elemento nuovo mescolato con ritmo puntato, questa funzione di ponte, cioè di passaggio. Questo è molto difficile da suonare, sentite? Senti come ripete questo arpeggio, sempre più acuto, è difficilissimo. Magari non lo sembra, ma... ritmo puntato. Adesso una cadenza velocissima del violino. Attenzione perché sembra che questo elemento del violino porti a questo, alla ripresa del primo tema, no? Mentre invece porta al secondo tema e sentite la sorpresa che abbiamo improvvisamente, perché c'è un salto di tonalità. Noi ci aspettiamo il primo tema, mentre invece Tchaikovsky ci sottopone il secondo. Eccolo, attenzione, ecco. Noi siamo sorpresi, ma anche accarezzati, no? Da questo suono vellutato dell'orchestra e del violino. Come una carezza. D'altra parte lo stesso tema lo troviamo poche battute dopo, un'ottava sotto, sulla quarta corda, cioè la corda più grave del violino. Sentiamo. Questo meraviglioso tema diventa la base dello sviluppo, dell'elaborazione, della parte centrale di questo primo movimento. Sentiamo. Sentite il flauto? E il secondo tema? Sentite il violino che ha tutta una serie di figure virtuosistiche, ma tantissime diverse. Per esempio, questo elemento. Sempre nell'acutissimo, molto difficile da intonare. Un altro elemento ancora. Altro elemento di arpeggio. punto culminante con Trilli. Sentite il ritmo dell'orchestra, implacabile. Altra figura ancora, che sale, sale, sale e arriva al tema nella sua massima espansione, cioè al primo tema con tutta l'orchestra. Questo passaggio prelude all'elaborazione, cioè alla parte centrale. Adesso attenzione a questo passaggio, questo. Perché attenzione a questo passaggio? Perché è quello che avevo fatto notare all'inizio, nell'introduzione, c'è questo passaggio. Per un attimo, ma è proprio per 4 secondi. Questo passaggio qua, in questo momento, serve a Tchaikovsky per raffreddare la musica. Abbiamo appena sentito un passaggio estremamente vibrante. Invece, sentite, da questo momento in poi, lui raffredda tutta la musica e diventa uno sviluppo sottotono come di questo elemento. Tari, tari, tari. Noi sappiamo che questo passaggio è un'attesa di qualcosa di più importante che verrà dopo. Anche perché il violino solista non c'è. Salita, ed ecco il violino. Fa il primo tema in una meravigliosa variazione. Questo fa sempre parte dello sviluppo, naturalmente in questo caso è più una variazione, no, del tema. Di nuovo. E arriviamo a uno di quei momenti topici, no, dei concerti per strumento solista e orchestra, che è la cadenza del violino solo. Sentiamo da circa metà cadenza, che è molto lunga la cadenza, e proprio sentiamo il punto in cui ricapitola il primo e il secondo tema. E sentite con quali novità. Ecco il primo tema. Arriva a un acutissimo. In realtà è niente in confronto a quello che c'è dopo. Sentite qua. E adesso. Cioè, acquisito quella nota acutissima, diventa protagonista quella nota acutissima. È come un'acquisizione nuova. Eccola. Eccola lì. Trilli, ma non rientra l'orchestra, di solito i trilli sono un segnale di ripresa dell'orchestra, invece no. Il secondo tema. Di nuovo, una terza sopra, più in alto. Sempre più in alto. Adesso ha acquisito questi accordi e gioca con questi accordi. Grande discesa, ancora più acuto. Adesso si stabilizza su due note. Sono le due note che saranno l'inizio del tema del terzo movimento. Accelera. Impazzisce. il trillo che è il segnale della ripresa dell'orchestra, questa volta sì. Sentite che morbidezza. Il tema è al flauto. Il violino prosegue col trillo. Pizzicato dei violoncelli. Ed ecco che il primo tema qui acquisisce proprio la sua definitiva collocazione. Passiamo al secondo movimento, che in confronto al primo è decisamente più semplice formalmente, è proprio una canzonetta in tre parti, la ABA, proprio la canzone ABA. La canzone ABA è di derivazione chiaramente vocale, no? Il tipico lead tripartito, no? Da Mozart, Schubert, Schumann fino a Brahms, che poi diventa un'importantissima forma anche strumentale, quindi moltissimi adagi di sinfonia, di quartetto, di trio, di sonata sono in forma di canzone ABA. Sentiamo, vi ricordate il preludio, no? Che diventa... Diventa proprio il tema di questa canzonetta. Eccolo. Sentite che l'accompagnamento orchestrale è semplicissimo, sono accordi, però c'è il corno sul secondo movimento. Eccolo. Corno. Corno. Corno. Molto zigano. Adesso sentite nella ripetizione, adesso l'orchestra è tutta archi, non c'è il corno, è tutto legato. Non c'è mai una ripetizione uguale in Tchaikovsky, come in tutti i grandi compositori. Frase stupenda. Conclude il tema. È arrivato a un punto culminante e adesso arriva nel grave. Terza ripetizione del tema al flauto, come un uccellino. Orchestrazione magnifica, col clarinetto, archi. Come gioca con i suoni diversi dell'orchestra. Gli archi qui sono di nuovo di velluto ed ecco che c'è il secondo tema. Sono tutte frasi discendenti, tema in maggiore, ma tutte discendenti, esattamente come il contrario, il tema in minore era tutte frasi ascendenti. Ecco, possiamo sfumare perché questo adagio in realtà è tutto qua. Cioè questa parte centrale, no, molto lirica, e poi la ripresa del primo tema, è proprio la canzone ABA. Quello che abbiamo appena sentito era la parte B, che vuol dire parte di secondo tema. Torna il primo tema e adesso ci dedichiamo ad ascoltare la coda, cioè quella parte che potrebbe anche non esserci, che è di più. No, che di più. In questo caso è molto importante questa coda perché assistiamo alla nascita del terzo tema. La nascita del terzo tema, cioè lui comincia con i primi violini a fare così. E poi ci sono le viole. E poi cioè ti tirari. Vedete, questo sono è un ritmo ta ta, che poi diventerà un ritmo molto più veloce, quindi un ritmo può essere fatto molto lentamente o molto velocemente. Ecco, lui sfrutta questo fatto ed ecco che cosa succede, cioè questa cosa assolutamente pacificata che è la coda le viole. Nuovi violini. primi e secondi violini, fagotto. Vedete che comincia a stringere, no? Clarinetti, fagotti, violoncelli e contrabbassi. Questa è l'orchestra, no, che ho brutalmente trascurato per suonare io. Ma perché voglio suonare io? Perché è sempre un po' questo passaggio. Dobbiamo ritornare al primo tempo per scoprire che questo embrione di ritmo, ta-ta-ta, lo trovavamo già nell'introduzione del primo movimento. Questo passaggio finisce col violino che proprio gioca con queste tre note. E finalmente ecco il tema del terzo movimento. Sentite quante scale ci sono, scale tutte ascendenti. Vedrete che il secondo e il terzo tema invece sono scale discendenti. Continua a giocare sulle prime tre note. Adesso c'è un'orgia di scale ascendenti. Secondo tema, scala discendente. Adesso attenzione come questo tema molto statico diventa una danza. Accelera. Gli archi. Corni. Attenzione, un passaggio che porta al terzo tema, che è ancora una scala ascendente e discendente. Eccolo. Discendente. Discendente. Ascende. E adesso siamo nella parte, in piena parte di sviluppo di questa parte centrale dell'ultimo tempo, e vediamo come il violino varia il tema B, cioè la parte, il secondo tema che abbiamo sentito, quello molto pastorale, no? Sentiamo. Questo è il tema come l'avevamo sentito, sempre sulla quarta corda, nel registro grave del violino. Adesso prima variazione, sentite. Seconda variazione. Terza variazione coi corni. Il violino intanto passaggio veloce ed ecco improvvisamente torna la cadenza del primo movimento, quell'acutissimo che avevamo sentito. Ecco, vedete come Tchaikovsky ha una capacità di trasformazione tematica, no? E di sfruttamento capillare di ogni elemento melodico, sia con la tecnica dell'elaborazione, ma anche, come abbiamo appena sentito, con la tecnica della variazione, cosa che lo unisce un po' a Brahms. Sapete che Brahms usa moltissimo la variazione anche all'interno della forma sonata. Non so se lo sapete, ma insomma, non importa questo. L'importante è capire cos'è una variazione e cos'è un'elaborazione. Sono due cose diverse, ma adesso ho poco tempo per spiegarvelo. Sentiamo l'ultima parte di questo ultimo tempo, dove proprio giustappone, cioè sovrappone più che giustappone, il primo tema e il secondo tema. Secondo tema, primo tema, secondo tema, primo tema, tutto sovrapposto. Primo tema, sentite la regolarità del violino. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, attenzione, 1, 1, stringe ancora di più, è chiaro che stiamo andando verso la fine, ce lo fa sentire i suoi costi. Qui Stravinsky ha copiato. È proprio la fine del concerto di Stravinsky, quella scala. Vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima lezione di musica. Un saluto da Luca Mosca. Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare il concerto in re maggiore opera 35 per violino e orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.